Gli Irrinunciabili presenta per RadioBigWar.com Stranger Things, una serie dei fratelli Duffer. E che serie, Luca! Anzi, prima di entrare nel vivo della puntata, mi presento, sono un altro speaker di Radio Big War, Davide, e ho chiesto personalmente a Luca di farmi partecipare a questa puntata, perché sono stato io a stressare Luca di vedere questa serie e di farne una puntata, perché mi piace il suo programma, mi piace questa la serie, e allora ho detto, ah, il modo migliore per ascoltarlo è entrarci. Luca, sì. Che serie, una perla! Sì, assolutamente, io ti ringrazio tantissimo. Questa serie fondamentalmente riassume tutti gli aspetti più iconici e fichi che ci sono negli anni Ottanta. Abbiamo echi dei Goonies, Poltergeist, Stand By Me, E.T., addirittura verso il finale abbiamo Aliens, cioè sono riusciti ad infilarci Aliens. Secondo me è una cosa veramente geniale, Davide. Luca, aggiungerei a questo tuo cocktail anni 80 anche Super 8, perché io vedo qualche traccia di Spielberg. Assolutamente, assolutamente. E poi come non citare Stephen King, che comunque viene citato addirittura nella serie. Comunque sia, l'elemento cardine di questa serie è questo gruppo di ragazzini di circa 12 anni che incarna perfettamente quell'elemento fantastico del cinema anni 80 che ancora oggi è grande fonte di ispirazione per molte produzioni. Questi ragazzini sembrano usciti, come dicevi te, quasi da un film di Spielberg. Vanno in giro per la città con le loro immancabili biciclette e vivranno un'avventura pazzesca. Loro sono dei super nerd perché giocano a Dungeons and Dragons, fanno più volte citazioni di Star Wars, hanno tutto un armamentario particolare formato da walkie-talkie, bussole. Insomma, sono veramente fantastici. E secondo me tra questi ragazzini ne spicca in particolare uno, Davide. Ma se stiamo pensando allo stesso, penso sia Dustin. Quello è il mio preferito. È troppo simpatico. È interpretato da Gaten Matarazzo ed è veramente simpaticissimo. E c'è una particolarità, che il personaggio che lui interpreta ha un problema fisico che riguarda le ossa. E viene preso di mira anche per via di questa cosa da parte dei bulli. E lo stesso attore ha, in forma lieve, comunque questo problema. E comunque, questa secondo me è una cosa molto bella, perché per chi magari ha problemi fisici possono portare a disagi e cose del genere, Gaten Matarazzo invece mostra che effettivamente, nonostante questi impedimenti, si possono fare grandi cose. È una bella cosa. E questo gli fa molto onore. Tra l'altro è un personaggio incredibile, buono, funge da amalgama nel gruppo, perché quando gli altri magari hanno dei diverbi, e lui sempre che fa da pacificatore. È veramente un personaggio molto buono. Ma prima di addentrarci, Luca, io farei una menzione alla sigla di questa serie, perché prima di entrare nella serie, la prima cosa che uno vede quando inizia a vedere questi 8 episodi, perché è molto breve, è la sigla. Tra l'altro, Luca, tu in quanto tempo l'hai visto? Sii onesto. Allora, io, beh, lo ammetto, dai, io sono alla fine sono un nerd e l'ho vista tutta in una giornata. Non ho resistito. 8 puntate me le sono sparate tutte uno dietro l'altra, perché è troppo bella, veramente. Per chi come noi è rimasto imprigionato negli anni 80, poi è veramente una libidine. Sì, noi dagli 80 non ci siamo usciti ancora, no, e vedo che il tuo programma... Non vogliamo uscire dagli anni 80! No, siamo infognati, felicemente infognati. Tra l'altro, visto che l'evoluzione del tuo programma, Gli Irrinunciabili, dalla puntata 8 ad oggi, che è la 12, sei rimasto in questo decennio, ma hai intenzione di rimanerci, no? Assolutamente, anche se tratterò dei film magari usciti dopo gli anni 80, cerco però sempre di carpire quello spirito. Diciamo così, se poi hanno una sigla come quella di Stranger Things, dici qualche chicca di questa sigla, perché è bellissima. Sì, allora è stata una scelta geniale, perché alla fine hanno fatto una serie ambientata negli anni 80, molto iconica, con tanti elementi anni 80, con una sigla che è tutta fatta interamente con i sintetizzatori vintage degli anni 80. Wow. Per cui abbiamo un po' questi sonorità alla John Carpenter, se vogliamo, ed è fantastico, perché aumenta ancora di più tutto la forte aspetto scenografico del tutto. È veramente fenomenale, fenomenale, la sigla è veramente da 10 lode, come tutte come tutte le canzoni che ci saranno poi durante la serie. Perfetto, abbiamo introdotto ora i ragazzini, ma non sono gli unici protagonisti di questa serie. No. Perché noi possiamo individuare tre filoni narrativi, che sono divisi per età anagrafica. Abbiamo i ragazzini, che poi si uniranno con una bambina scappata da un laboratorio segreto, ma di questo magari ne parliamo più avanti. Abbiamo poi i filoni dei teenager, che sono appunto i classici teenager della periferia americana con le loro aspirazioni, i loro problemi e così via. E poi abbiamo gli adulti. Da una parte abbiamo i cattivi, che sono gli scienziati governativi, e dall'altra invece abbiamo le figure più positive, con un poliziotto ficcanaso e una madre interpretata in maniera stupenda da Winona Ryder, che finalmente la vediamo ancora sugli schermi, che dovrà e farà di tutto per trovare il suo piccolo figlio scomparso. E riguarda questo, Davide, a quanto ho detto adesso, ma tu avevi riconosciuto lo scienziato del laboratorio segreto? No, effettivamente mi ci è voluto un po', ed è stato proprio Luca a farmi notare che il protagonista cattivo di questa serie era ed è un famosissimo attore, che però quel pelo bianco che attualmente mi aveva portato a non riconoscerlo. E poi diciamolo, per noi, e qui do un grande indizio, sarà sempre il mitico soldato Joker. E con questo ho detto tutto. Sì, lasciamo agli spettatori la sorpresa di sapere chi è quando lo vedranno. Comunque nelle serie, Luca, le serie di oggi stanno diventando dei lavori, dei progetti veramente belli, perché come vedi nelle serie vecchie non c'erano attori di questo calibro, no, Winona Ryder, no. Questo Mr. X, che poi andrete a vedere che fa il cattivo, e anche in tante altre serie stiamo vedendo attori di primo grado di Hollywood, sì. E quindi è incredibile. Le serie ormai hanno raggiunto una maturità che è lontana dai vecchi telefilm. Ormai sono dei prodotti talmente curati, così belli, così complessi, che ovviamente sono molto ambiti anche da parte di attori di prima grandezza. Assolutamente, assolutamente. Sì, molto bello il gruppo degli adulti di questa serie, perché ha un ruolo parecchio importante, sì, nonostante i ragazzi siano protagonisti, però anche gli adulti... Sì. Hai detto una cosa intelligente, Davide. Perché pur essendo una serie fortemente anni 80, però è fruibile da tutti, non è solo per i nostalgici come noi. Questo perché i produttori hanno fatto una scelta intelligente, hanno apportato alcuni cambiamenti per renderla più moderna, soprattutto su due aspetti. Innanzitutto la figura dei genitori. Se noi pensiamo alle produzioni cinematografiche degli anni 80, i genitori sono quasi sullo sfondo quando ci sono i ragazzini come protagonisti. Pensiamo ai Goonies, Stand By Me. I genitori quasi non li vediamo mai, non fanno quasi nulla. Qui invece, se pensiamo alla figura di Winona Ryder, la madre del ragazzino scomparso, una figura carne, lei è fantastica, perché da un lato è disperata, quasi arriva a livelli di pazzia, e dall'altro è super determinata e fa di tutto per cercare di ritrovare suo figlio. Per cui già questo è un aspetto di grande modernità. L'altro aspetto sono i bambini, i ragazzini, che negli anni 80 di solito noi li vedevamo molto stereotipati. Pensiamo ad esempio ai Goonies, c'è il classico ragazzino chunk, grasso, un po' sfigato che spara sempre battute, poi magari c'è quello più in gambe e così via. Invece non c'è questa forte caratterizzazione. Secondo me anche questa è una cosa positiva, perché rende moderno gli anni 80, rende gli anni 80 moderni e usufruibili da tutti. È stata una gran mossa da parte di chi ha concepito la serie, assolutamente. Sì, sono ragazzini che comunque trasmettono tantissimo, soprattutto il gruppetto cardine, che poi ha al quale poi si aggiunge anche la bambina, sono emozionanti. Sì, adesso, senza voler fare grossi spoiler, possiamo dire che gli elementi scatenanti della trama sono appunto la sparizione di questo ragazzino che fa parte di questa compagnia, e poi questa bambina dai poteri straordinari che scappa da questo laboratorio segreto, la quale incontrerà i ragazzini, e per cui si nascerà tutto un processo di reciproca conoscenza, che è molto bello ed è molto tenero, devo dire. L'aspetto probabilmente più emozionale e che tocca il cuore dello spettatore, io penso, assolutamente. Sì, questa bambina diventa poi molto unita al gruppo, proprio perché si può anche dire che questo è un gruppo emarginato dagli altri gruppi della scuola, sono i classici ragazzini che purtroppo vediamo ovunque nel mondo, ci sono sempre i bulli o qualcuno viene sempre emarginato, e proprio questa emarginazione porta a un'apertura mentale che permette di legare moltissimo con un'altra bambina, poi comunque tendenzialmente anche lei emarginata, emarginatissima, sì, quindi si unisce moltissimo. Nonostante magari all'inizio i rapporti non sono magari proprio idilliaci, diciamo. No. Però è bello che si imparano a conoscersi, soprattutto questa giovane ragazza che praticamente conosce veramente poco del mondo esterno, perché è sempre stata imprigionata in questo laboratorio, e per cui impara anche ad esempio il concetto dell'amicizia, tante cose, ed è bellissimo, anche perché sono delle cose che vengono affrontate dalla serie in modo molto plausibile e per niente melenso, e questa è una gran cosa, perché era facile cadere in questi aspetti. Sono tantissimi gli elementi che affascinano di questa storia. Probabilmente tu ne hai qualcuno che ti ha affascinato di più. A me, per esempio, sono piaciuti di tantissimo i protagonisti, i personaggi. Scommetto che ti è piaciuto tantissimo l'aspetto più scientifico. L'aspetto scientifico è meraviglioso. L'aspetto scientifico è interessante e ha anche un fondo di verità. Per dirla in breve, tutto si basa su una spiegazione fatta poi da uno dei professori, dal professore dei ragazzini, Clark. Esattamente, che è un grande ruolo, magari poi ne parliamo e ci racconti un po' più di cosa, un po' più di quello che pensi di questo professore. Che meritava probabilmente essere più approfondita. Comunque è fantastico il professor Clark, perché probabilmente da ragazzino era un nerd come i suoi studenti preferiti, ed è bello perché lui sta dietro ai protagonisti che comunque sono svegli e hanno sete di conoscenze, insomma. E comunque, se dicevamo, il professor Clark dà delle spiegazioni scientifiche a quanto accade, è vero Davide? Sì, è come se ci fossero due dimensioni parallele tra loro, che però, se c'è una porta che permette di congiungerla, si congiungono, quindi tu sei in questo punto. In questo momento, nello stesso punto, esiste una realtà parallela dove accadono cose parallele. Però se c'è modo di unire questi due universi e far sì che da una realtà esca qualcosa, poi non possiamo dire che cosa, succede il mondo. Esattamente. E poi questi laboratori, province americane, che sembra che stanno facendo qualcosa, poi ci sono 20 piani sotterranei dove fanno tantissime altre cose. In questo caso si parla anche di esperimenti con le droghe, esatto, che erano stati fatti dal governo americano, che utilizzavano praticamente delle persone che erano delle cavie, che ricevevano dei soldi per sottoporsi a questi trattamenti, per cui insomma c'è anche un fondo di verità, per cui sì, è un aspetto molto affascinante, come affascinante anche la figura del professor Clark. Io gli avrei dato forse più risalto, però è veramente un grande nella serie. Sì, è grande. C'è una scena che mi fa morire quando i ragazzini gli telefonano nel pieno della notte a casa sua per chiedergli delle spiegazioni, mentre lui è lì con la sua fidanzata che sta vedendo un film. Altre cose, la cosa di John Carpenter. Grande professor Clark, lui vero. Anzi, ci devi fare una puntata sulla cosa, Luca. Sì, ma guarda, tutto John Carpenter meriterebbe veramente forse uno speciale. Però Luca, uno dei plus del tuo programma Gli Irrinunciabili è che non solo ci racconti un po' l'aspetto emotivo, l'aspetto della struttura, di quello che c'è dietro una serie, ma anche qualche chicca, qualche perla che se no non riusciremmo mai a scoprire. Quali sono le perle di Stranger Things? Dai, due perle così al volo. Allora, innanzitutto, le audizioni per il ruolo dei ragazzi sono tutte state svolte con delle scene prese da Stand By Me. Per cui i ragazzi dovevano recitare delle scene di Stand By Me, e questo per dire come erano focalizzati i produttori sugli anni 80. Addirittura hanno riproposto la scenografia di Stand By Me, e gli hanno scelto in base a come recitavano esatto, su cosa esatto. Quel film. Sì, hanno preso proprio il film di formazione per ragazzi per eccellenza degli anni 80. Incredibile, esatto. Incredibile. E poi parliamo assolutamente di Millie Brown, che è questa bambina che è fantastica, che interpreta appunto questa ragazzina che scappa da questo laboratorio. E lei, vabbè, innanzitutto dà un'interpretazione veramente sopra le righe, incredibile, perché lei parla pochissimo, però solo col suo viso, con gli occhi, esprime un turbinio di sentimenti che è pazzesco, Davide. Sì. La rivedremo anche in tanti altri film, perché ha un talento incredibile. Diciamo che di 8 puntate dirà 100 parole la ragazzina, anche quindi tutta meno, la sua, sì, la sua recitazione è tutta con il linguaggio del corpo, gli occhi, è fantastica. Esatto. E per esigenze di copione ha dovuto rasarsi i capelli. Però voi capite che se voi chiedete a una bambina di 12 anni di rasarsi i capelli, anche no, può avere delle reticenze, giustamente. Allora cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Le hanno fatto vedere la bellissima Charlize Theron nell'ultimo Mad Max Fury Road, e hanno mostrato come, nonostante avesse i capelli rasati, comunque manteneva ancora tutta la sua bellezza, e alla fine si è convinta e ha accettato di buon grado di farsi rasare i capelli. Incredibile. E noi abbiamo potuto godere della sua grandissima interpretazione. Mi piace questa, probabilmente la userò questa frase quando mi chiedono o mi chiederanno perché i capelli rapati, per esigenze di copione, penso che te ne esci bene, esatto. Te ne esci molto. Luca, una domanda, sì. È un dubbio, dopo aver visto Stranger Things prima stagione, sono andato ovviamente a cercarmi se ce n'era o se ci sarà una seconda. Il mio dubbio, che poi Netflix ha informato che ci sarà una seconda, assolutamente è confermato, sì. Ma faranno una seconda, secondo te, grazie al successo della prima, o questa prima, secondo te, è stata fatta a sé stante, come se non dovesse avere una seconda? Perché il dubbio rimane, sì. Dopo il successo Netflix ha detto facciamo la seconda. Perché... Sì, è vero, Davide, perché se noi vediamo come è strutturata la serie, si presterebbe ad essere una serie ontologica. Ovvero quelle serie dove ogni stagione si chiude e poi parte una nuova stagione con altri personaggi, sì. E così via. Si presterebbe una cosa del genere, anche se però notizie recenti hanno confermato che vogliono parte del cast ancora nella seconda stagione. Per cui non lo so se magari mischieranno un po' le carte, eccetera, perché comunque... effettivamente una seconda stagione si può prestare a diverse interpretazioni, e starà loro, secondo me. Quindi conclusione, serie assolutamente da vedere, per quanto mi riguarda io non sono un esperto, però sono un divoratore di serie, capisco nella superficialità quando una serie è potente, proprio perché da spettatore la guardo, mi suscita le emozioni, poi c'è quindi Luca che mi spiega il perché io avuto quelle emozioni, quindi secondo me è una perla, sì. E assolutamente da vedere, assolutamente consigliata a tutti, perché è bellissima, ma poi comunque stiamo parlando di 8 puntate, per cui ve la potete vedere molto facilmente, e siete alla prima stagione, il prossimo anno esce la seconda, per cui non dovete farvi una super maratona per vedervi tutte le stagioni, insomma non ci sono scuse, la dovete vedere. O se no fate come Luca, in due giorni, in sabato e una domenica vi vedete due stagioni. Okay, Luca, giorno, prima di giorno. Chiudere, lo so, però dico, se ci fosse anche la seconda dovranno fare un weekend intero. Prima di chiudere, so che tu non l'avresti detto, ma la musica di sottofondo che avete ascoltato in quest'ultima parte dell'episodio, tutto l'episodio, sì, è tutta composta e creata da Luca, ispirato proprio dalla serie di Stranger Things. Quindi complimenti anche per la composizione della musica, Luca, che a me piace particolarmente. Sì, mi sono, diciamo, un po' divertito con questi sintetizzatori virtuali anni 80. Vabbè, ho smanettato un po', diciamo. Cioè, c'è ancora tanto da imparare. Luca, dobbiamo fare assolutamente anche True Detective, almeno la prima stagione, per gli ascoltatori insieme. Vorrei eccezionale, purtroppo si sento molte volte che molte persone non l'hanno vista, ed è assolutamente bisogna farci una puntata, vero? Sì, merita tantissimo, assolutamente. Bene, perfetto, grazie mille per avermi dato l'opportunità di stare dentro il tuo programma, perché sono un ascoltatore oltre che anch'io uno speaker per Radio Big World, però volevo esserci dentro fino al collo quando avresti fatto Stranger Things. Grazie a te Davide per l'opportunità. Noi insomma speriamo che vi sia piaciuto questo podcast e che se non avete visto la serie vi abbiamo invogliato a vederla, per cui vi salutiamo, viva gli anni 80 e buona visione.